eccola. Pure stasera chi dorme? Chi? I fantasmi da sotto al letto, chi me li toglie? Perdo la vista a fissare l'orizzonte, fino a quando il sole mi sorge in fronte. Uno, due, tre, quattro. Saltano lo steccato, poi trovano me impiccato. Provo a dirlo tutto d'un fiato, quanto il sangue che mi hai succhiato. Fino ad essere debole, quel dolore piacevole, senza seguire le regole. Supereroi, io completamente colpevole, già di adorarti, amavo anche il tuo osso del femore. Una vita incredibile, come quella delle api. Ci siamo spiegati, siamo spietati, quanti ti amo sprecati. Il dramma lo pettino, di bicchiere già il settimo. E adesso sto, dove? Con la testa sul bancone. Mando giù shots al lampone. Vai. Il barman mi chiama, campione, campione. Ho il cuore che è una mela acerba, la merda se la cerca, sembra che l'avverta, mi vuole vedere con la vena aperta. Ogni notte l'insonnia e la prassi, sempre. Tu mi dici bisogna distrarsi, yeah. Pensi che con due dischi mi passi, yeah. Ma è più facile a dirsi che a farsi, yeah. Assuefatto alla mia depressione, un po' come una droga. La pressione che porta a sbagliare un rigore, anche se a porta vuota, nah. A 30 anni saremo sconvolti, tutti quanti coi buchi nei crani, yeah. Ho 3 grammi di scorta nel trolley, yeah. Spero che non mi fiutino i cani, nah. Ho già troppi problemi, non posso accollarmi anche quelli legali, per questi infami il peggiore dei mali, la carne per i vegani. Sono stanco per le troppe gocce, yeah. Troppe torce finché il sole esorge, yeah. Questa merda non va via, ho fatto troppe docce. È una malattia, mi auguro una morte dolce. So che il tempo non si ferma, col buon umore sto un po' riserva. Ma ogni mattina quando mi sento un po' di merda, tu mi salvi un attimo prima che tocchi terra. So che il problema non è la caduta, ma quando domani mi sveglierò a pezzi. Ma la pressione quassù non mi aiuta, mi toglie anche l'aria, fra perderò i sensi. Il mio futuro che è ripido e tetro, io sempre in bilico, spirito inquieto. Però non cedo, fino all'ora del congedo, il dubbio me lo concedo. La buona azione, poi maledizione, il mio karma che torna all'inizio. Non sei la soluzione, né la soluzione, ma il dramma che provoca il vizio. Ho inseguito un fottuto momento, una vita, ora non lo realizzo, no. Il dolore che mi tiene sveglio è una fitta che non localizzo.